Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Alfred è il mitico maggiordomo di Batman, un signore di buone maniere, sempre capace di anticipare le necessità di Bruce Wayne. Ecco, la domotica, ovvero l'automazione applicata alla casa, sta andando precisamente in questa direzione, trasformandosi progressivamente da tecnologia che si limita a regolare delle variabili ambientali come la temperatura, a sistema in grado di comprendere i bisogni degli abitanti e di dare loro delle risposte. Per esempio, lo stesso sensore di presenza può servire a far scattare un antifurto, ad accendere le luci in corridoio quando passa qualcuno, ma messo in un bagno può servire per esempio a lanciare un allarme nel caso qualcuno sia entrato a fare una doccia e non si stia muovendo da più di 2 o 3 minuti. È questione di come si usa l'informazione. Ebbene, Alfred è anche il nome del maggiordomo digitale progettato da 2 ex studenti di ingegneria informatica dell'Università di Roma 3. Parliamo di un'app che tiene le redini di casa gestendo impianti ed elettrodomestici. Il loro progetto ha numerose caratteristiche di originalità e oggi è una startup inserita nel programma di accelerazione di PricewaterhouseCoopers e di Microsoft Venture UK, quindi a Londra, dove si trova il nostro ospite Nicola Russo, cofondatore con Michele Galli di Brain Drain Solution. Buonasera Russo. Buonasera, salve, grazie per l'invito. Allora, senta, entra a casa sua nel 2030, che naturalmente sarà gestita da uno di questi maggiordomi digitali. Che succede? Beh, noi immaginiamo una smart home interattiva, immaginiamo come una casa che conosca i propri inquilini e le loro abitudini, che sia, diciamo, gestita da un'entità da un'intelligenza artificiale, ecco, e che renda realmente la vita più semplice, automatizzando scenari di vita quotidiani, prevedendo o agendo tempestivamente per risolvere eventuali problemi che possono insorgere all'interno delle mura domestiche e imparando anche a consumare meno risorse in termini energetici e soprattutto abbattendo tutti gli sprechi, come ad esempio dispositivi in stand-by o luci o dispositivi lasciati accesi quando nessuno è in casa. Questa è la nostra visione di casa del futuro, di smart home. Ecco, dove poi forse si aggiungerà addirittura un tema che è quello della salute, del monitoraggio medico, che è un tema di cui si sta molto discutendo. Ecco, quindi quando uno entra in questa casa, naturalmente il maggiordomo si rende conto, magari si è già accorto che stava arrivando, ha già cominciato ad alzare la temperatura, se non lo fa subito, fa scaldare il caffè, per esempio, o cose. Una vera e propria entità, sì, con cui comunicare, con la propria voce e con cui appunto interagire per poter controllare tutti gli aspetti della propria casa. Ecco, veniamo al vostro di Alfred. Abbiamo detto che è un'app che gestisce dei sistemi domotici. Ecco, cominciamo da qui. Quali? Che tipologia? Non tutti. Esatto, sì. Tutti quei dispositivi domotici che forniscono interfacce per l'integrazione di terze parti. Quindi domotici e anche wireless, se ho capito, devono essere sostanzialmente questi oggettini. Esatto, principalmente wireless o che utilizzano comunque protocolli come ad esempio il Bluetooth. Comunque senza fili. Ecco, e Alfred oggi che cosa è in grado di fare? Oltre al controllo dei dispositivi, quindi oltre a offrire delle dashboard per il controllo dei dispositivi stessi, Alfred offre una serie di funzionalità, tra cui la possibilità di costruire scenari, ovvero sequenze di azioni, eccetera, eccetera, oppure la possibilità di costruire delle vere e proprie regole logiche per la gestione automatica della casa. Questa funzionalità che si chiama If Then, che è una delle istruzioni fondamentali dell'informatica. Se succede questo, fai questo. Esatto, creare vere e proprie regole logiche che ci permettono di dire al nostro maggiordomo se ad esempio vengono rilevati fumi o gas infiammabili, allora non so, chiamami sul cellulare o a colora di rosso tutte le lampadine di casa e falle lampeggiare in modo tale. Come sull'Enterprise, insomma, praticamente, come l'allarme dell'Enterprise. Le prossime implementazioni quali potrebbero essere? Beh, le sfide su cui stiamo lavorando non sono noi in realtà, tutti i big player di questo settore riguardano principalmente appunto l'intelligenza artificiale che c'è dietro all'applicazione e principalmente su 2 punti, ovvero la comprensione del linguaggio naturale, quindi permettere all'utente di controllare tutta la casa. Cosa che la propria casa. È difficile, perché uno potrebbe far partire il gas per sbaglio, per capirsi, nel senso bisogna farlo bene, non è come sbagliare una virgola in un testo dettato, no? E questo è un primo aspetto, sì. E come seconda cosa, dare la possibilità al nostro maggiordomo di poter riconoscere i volti di amici e parenti per poi autorizzarli o meno a utilizzare o interagire con la casa stessa o comunque con parte di essa. Ecco Russo, l'app che voi fornite è gratuita, quindi le chiedo come fate a stare in piedi, qual è il vostro modello di business insomma? Noi siamo una società di big data, quindi facciamo analisi sui dati raccolti appunto attraverso l'interazione con l'applicazione, rendendoli totalmente anonimi e riorganizzandoli, raffinandoli per poi fornire ai nostri clienti finali, che sono il business sostanzialmente, uno strumento per poter fare interrogazioni ad hoc, quindi la possibilità di analisi di mercato. Ecco, per esempio, voi sapete quante volte uno utilizza l'elettrodomestico, per quanto tempo, quanta energia assorbe e cose di questo genere. Naturalmente anonimizzati, questi sono dati molto ghiotti per chi fa analisi di mercato e cose di questo tipo. Va bene, grazie allora Nicola Russo e avanti così. Grazie. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.